24 mattino. Eccoci qua alle 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare oggi il nostro ministro alla difesa, Giampaolo Di Paola. Ammiraglio Di Paola, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere intervenuto a Radio 24. Grazie. Senta, lei ha presentato questa riforma sul nuovo modello di difesa che prevederà anche nei prossimi anni una sorta di dimagrimento per le forze armate di circa 33.000 uomini. Ci vuole spiegare come avverrà questo dimagrimento? Innanzitutto terei a chiarire che si tratta più che della riforma del modello di difesa, che non cambia, il modello volontario che è stato stabilito per legge, una riforma dello strumento, cioè un riportare lo strumento militare in equilibrio con le risorse che questo paese può dare. E la realtà è che bisogna quindi progressivamente ridurre le spese, quindi le risorse dedicate al personale, e quindi ridurre il personale per poter investire su quello che è l'essenza di uno strumento militare, l'operatività, quindi la preparazione degli uomini che ci saranno e i mezzi per poter essere all'altezza dell'Europa. Gli strumenti utilizzati per questo ridimensionamento quali sono? Ma sono prima di tutto una rimodulazione degli ingressi, vuol dire una riduzione degli ingressi, quindi meno arruolamenti, e una ovviamente un esodo, quindi i numeri in eccesso saranno fuoriuscite sia per normali flussi di anzianità, sia attraverso un insieme di strumenti quali la mobilità, quali l'inserimento nel mondo del lavoro esterno, quali altri strumenti che stiamo pensando, quindi un insieme di misure in modo che questo impatto sul personale possa essere il meno doloroso possibile, perché certo è una misura dolorosa, però è una misura necessaria. Senta Ministro, lei nel presentare questa riforma ha fatto anche riferimento a una frase di Antonio Gramsci, no? Uno dei fondatori del Partito Comunista, quando disse: per essere cosmopoliti bisogna prima avere una patria. Cosa voleva intendere con questo riferimento? Volevo intendere che oggi per essere europei, tutti vogliono essere europei e tutti abbiamo questa ambizione a un processo europeo più integrato. Per poter arrivare a questo oggi bisogna prima di tutto avere una patria, quindi essere italiani. E quindi anche nel settore della difesa realizzare uno strumento che sia in linea con quello degli altri paesi europei, in modo che si possa convergere verso un domani di una difesa più integrata e chissà quando la politica lo deciderà anche una difesa europea. Una difesa europea. Non era un riferimento, diciamo, agli italiani e la patria, nel senso sente l'attaccamento degli italiani alla patria? Assolutamente, anzi, vuol dire che l'Europa è fatta di tanti europei, è fatta di italiani, di francesi, di tedeschi, di austriaci. Noi dobbiamo costruire questa idea d'Europa convergendo. Questo è stato fatto, per esempio, quando si è costruito l'euro, no? Si sono fissati dei parametri per far convergere le economie, e così dobbiamo fare nel settore della difesa, fissare dei parametri di convergenza affinché si possa un giorno, domani, realizzare un'unità europea anche nel settore della sicurezza e difesa. Senta Ministro, lei non ha negato che ci sia un rischio di quello che è stato definito lo stipendificio, cioè il 70% del budget destinato alla difesa serve a coprire le spese per il costo del personale. È troppo? Io innanzitutto non ho mai usato la parola stipendificio, perché è una parola che non è nel mio vocabolario, nel mio lessico. Dico solo un fatto, che oggi con le risorse che il paese ci dà il 70% va al personale. Questa proporzione non è in linea con nessun principio europeo e soprattutto non è una linea di sostenibilità. Nessuna azienda che destinasse tutte le risorse o la gran parte delle risorse al personale potrebbe sopravvivere, perché le aziende e anche l'azienda di difesa deve produrre operatività, quindi deve avere risorse da dedicare all'operatività, al funzionamento e all'investimento. È un solo fatto di buon senso economico. Uno dei punti più dibattuti, come lei ben sa Ministro, negli ultimi tempi è stato quello dell'acquisto delle commesse delle aeree F-35. Lei ha detto che non saranno più 131 ma 90 gli acquisti. Qualcuno l'ha accusata di dire sono comunque troppi, e qualcuno dice non ce ne vorrebbe neanche uno. Ci dica bene qual è il punto su questo da parte del governo Monti. Chiaro, primo, uno strumento militare serio, e credo che l'Italia e gli italiani vogliano uno strumento militare serio, deve avere una componente aerea di questo tipo, una componente aerea. Oggi la componente aerea che noi abbiamo, la componente aerea fatta di Tornado, AMX, V8 Bravo, deve essere sostituita. La scelta dell'F-35 come sostituto di questa componente aerea è una scelta operativamente valida, tecnologicamente valida, industrialmente valida. Naturalmente l'entità di questo investimento è stato calibrato sulle risorse che abbiamo, ma che uno strumento italiano debba avere una componente aerea di questo tipo è innegabile, altrimenti non sarebbe uno strumento operativamente valido. Ma questa cifra 90 è una cifra definitiva? Perché per ora credo che le commesse siano state fatte per 4 di questi velivoli, cioè 90 è la cifra definitiva sotto la quale non si scenderà più? 90 è la cifra che noi riteniamo ragionevole, necessaria e sostenibile per questo strumento con le risorse che abbiamo. Quanto agli acquisti, questo vale per noi come vale per tutti gli altri paesi che partecipano al programma. Le acquisizioni sono progressive, si faranno sempre in tranche, in lotti come si dice, ma questo è previsto prima e sarà previsto dopo, che siano 90, 200, 1000. Questo vale per gli Stati Uniti, vale per noi, vale per gli altri paesi. Le acquisizioni vengono fatte in lotti, non c'è un contratto unico e si fa progressivamente, anche perché le linee si ammodernano progressivamente. Senta, visto, tornando alla vicenda il cosiddetto ridimensionamento, le giro una domanda che ci arriva via sms in diretta, una domanda che un militare oltre 50 anni pone a nome di 30.000 militari, cioè che fine faranno appunto questi 30.000 militari oltre i 50 anni, che sono ovviamente preoccupati a dire cosa succede, ci cacciano da un momento all'altro? Ma questo lo sanno benissimo che non è vero, perché la riduzione che si dovrà fare, il ridimensionamento dello strumento, non verrà fatto in un anno, in due anni, in tre anni, quindi non verranno cacciati, come lei dice, ma ci sarà una riduzione progressiva nell'arco temporale che sarà di 10 anni o poco più, e quindi parliamo di un arco temporale importante, quindi questa paura che domani verrà chiuso il posto di lavoro, questo è assolutamente fuori dalla realtà. Non c'è. Le faccio una domanda su una vicenda minore, ma ieri ce ne siamo occupati col presidente della provincia di Caserta. A Grazzanise, Caserta, c'è un aeroporto militare che alcuni politici vorrebbero trasformare in un aeroporto internazionale con il couso. C'è una posizione ufficiale su questo da parte sua? C'è una posizione ufficiale mia, io dico solo che in Italia mi sembra che di aeroporti civili ce ne siano anche troppi. Detto questo, non ho nessuna posizione, il problema non è un problema che in questo momento ha la mia attenzione, però userei del buon senso anche in queste cose. Sì. E infine le chiedo se martedì scopriremo anche il suo, come di tutti i membri del governo, di reddito e patrimoni. Pare che il Premier Monti voglia battere il tasto su questo. Massima trasparenza su redditi e patrimoni da parte dei membri del governo. Ma non c'è niente da scoprire. Martedì, io non sto nascondendo niente. Martedì, come è stato detto e chiesto al ministro Monti, i miei dati saranno in rete, mi piacerebbe ci fossero ancora di tutti gli italiani, cosa che non mi sembra sia così. A lei piacerebbe, cioè piacerebbe sapere. Certo, perché io non ho niente, perché io non ho niente da nascondere, forse altri che fanno le prefiche hanno qualcosa da nascondere. Ma vede che adesso di sti tempi sono partiti a Cortina, Napoli, pare che la Guardia di Finanza voglia fare una lotta senza quartiere. Guardi, io non ho niente da nascondere, quello del mio si renderà conto che non c'è niente da nascondere, vi assicuro, io sono stato un dipendente dello Stato per tutta la vita e quindi non credo che di aver accumulato tesori. E quindi martedì sapremo, comunque, come di tutti i membri del governo. Come è giusto che sia. Intanto la ringrazio, Ministro, per essere stato con noi, il Ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, che ci ha parlato appunto di come cambierà il sistema della difesa nei prossimi 10 anni.